Ci aspettiamo sicuramente un momento, quasi un laboratorio interculturale, per cui gente di ogni provenienza che attraverso lo sport, la cultura e la musica si ritrova in questi 3 giorni. Ci aspettiamo un torneo con 50 squadre di calcio a 7, 12 squadre di basket, 12 di pallavolo, 6 squadre di rugby, molti eventi collaterali, fra cui lo skate, possibilità di provare lo skate, il quidditch, la di provare il quidditch, la possibilità di fare dei laboratori di capoeira. Ci aspettiamo un clima, insomma, depotenziato della parte competitiva, perché attraverso le regole abbiamo fatto proprio una riflessione per portare lo sport a gioco, e per quello che si chiamano giochi antirazzisti. Ci aspettiamo poi dei momenti anche di intervento e dei momenti di intervento culturale barra musicale di un certo rilievo. Per cui il venerdì sera lo Stato Sociale, che fa un reading sui testi di Mauro Valeri, che è un grande sociologo che si occupava di razzismo nel mondo dello sport, purtroppo scomparso. Il sabato un bellissimo incontro dibattito molto interessante su migranti di serie A e di serie B, organizzato da Medici Senza Frontiere, Amnesty International, insieme a SOS Mediterranee e Avvocato di Strada. E la domenica un bellissimo momento di ricordo insieme alla ragazza blu, Sarir, che insomma è scomparsa in Iran perché si è data a fuoco, perché non poteva andare a vedere una partita di calcio, per questo l'avevano arrestata e gli avevano dato 6 mesi di reclusione. E pensiamo che quei diritti là, che sembrano negati e sembrano tanto lontani, insomma sono dei diritti per cui bisogna lottare ogni giorno, per cui ci sembrava giusto che anche quel momento fosse ricordato e fosse all'interno dei giochi. Ecco, meno competizione, più gioco, appunto. Come avete modificato le regole per renderle, per ridurre l'agonismo? Ci sono alcune regole che insomma derivano anche da altri tornei, per cui fanno parte anche di una sorta di tradizione, per cui dal torneo di Mondi piuttosto che alla Border Cup, che è quella di giocare senza arbitri ma con giudici di campo, che è quella comunque di mantenere una sorta di fair play abbastanza robusto, di giocare misti, per cui mescolati maschi e femmine insieme anche a culture differenti, a generazioni differenti, piccoli e grandi, insomma. E poi abbiamo introdotto delle piccole regole, risultati paralleli. Al di là della partita, per cui finisce che una delle due squadre vince, c'è il giudice di campo che può dare un punto o 0 punti alla squadra che ha interpretato meglio i valori dell'antirazzismo, per cui quello fa dell'antirazzismo, della mescolanza e i valori comunque dei giochi, e quello fa la differenza poi nel punteggio finale. C'è anche la possibilità per le squadre che sono in inferiorità tecnica di aggiungere giocatori, per cui giocare in 1, 2, 3 persone in più, per controbilanciare insomma la superiorità tecnica dell'avversario. Per cui queste sono un po' alcune delle norme introdotte insieme a molte altre, però il regolamento è lungo, insomma, per cui certo. Ecco, e appunto c'è anche una parte un po' più ludica, con concerti la sera, un po' l'accennavi, cosa ci sarà? La sera, sì, al di là dello Stato Sociale, che farà anche un po' di DJ set, abbiamo gli RFC di Caserta, è un gruppo ska, e farà il venerdì sera, insomma, allieterà un po' il pubblico. C'è la possibilità chiaramente di mangiare, di bere attraverso dei punti ristoro messi in piedi dal Bologna Rugby, direttamente dai gestori della struttura. E il sabato invece avremo una serata particolare legata all'Africa e al Brasile, per cui con percussioni, capoeira e un concerto appunto di musica afro-brasiliana. Poi a seguire ci sarà un DJ set. Ecco, prima dicevi un'ottantina di squadre, la provenienza più o meno? Bologna, Italia, Francia, UK, Germania e Austria. Altre info logistiche su... Altre info logistiche, chi vuole venire si porti la borraccia, perché abbiamo l'acqua di rete. Altre info logistiche: chiediamo a tutti comunque di fare particolare attenzione il sabato pomeriggio, per cui di venire, molti verrete comunque sabato mattina, però il pomeriggio da un certo orario in poi, in concomitanza col concerto dei Chemical Brothers, noi avremo un'area dove parcheggiare, per cui però magari vi prego vivamente di arrivare prima delle 4, insomma.